GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Incidente di caccia sul Carso, ferita a una gamba una donna di 60 anni, accaduta a Basovizza nel bosco Bazzoni, indagini della polizia. I licei scientifici, le scuole che preparano meglio all'università, spicca il Torricelli di Maniago, il risultato di una ricerca della Fondazione Agnelli. Consiglio regionale, approvata la legge sulla nautica, in discussione la revisione della norma che istituisce la commissione pari opportunità. Saldatrici e tornitrici, i nuovi mestieri delle donne, l'esempio dell'Appillosio di Tavagnacco, l'assunzione femminile per le professionalità quasi introvabili. La marcia mondiale della pace tocca Fiumicello Villa Vicentina, era partita a inizio ottobre dal Costa Rica. Giornate mediche triestine, oggi e domani a confronto centinaia di specialisti, l'associazione che le organizza è attiva da 150 anni. Assaggio d'inverno, nelle prossime ore previste nevicate anche a bassa quota, domani sereno ma resterà il freddo. La giornata degli alberi a Pordenone, piantumate 40 piante con i bambini delle primarie, a Udine un convegno sugli alberi monumentali, la nostra regione è da primato. Le 12:31 minuti, 30 secondi, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Dario Ronzoni. In apertura la cronaca nera, sentiamo. Sì, è stata ferita una gamba durante la battuta di caccia, una donna di 60 anni è accaduto intorno alle 10:30 di stamattina a Basovizza, all'interno del bosco Bazzoni, di fronte al sincrotrone. La donna, che faceva parte del gruppo di cacciatori, è stata colpita in modo accidentale da un colpo di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino di Trieste, insieme all'ambulanza del 118, i vigili urbani e la polizia. Con l'automedica e il fuoristrada i soccorritori hanno percorso circa 200 metri di strada sterrata per raggiungere la donna, che è stata stabilizzata e trasportata in spalle su una barella a piedi fino all'ambulanza. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono in corso, affidate alle forze dell'ordine. Sono stati resi pubblici i risultati del portale eduscopio.it della Fondazione Agnelli, che valuta come le scuole secondarie preparino i ragazzi per l'università. In regione il punteggio più alto va ai licei scientifici, tra i quali svetta il Torricelli di Maniago con un indice di 83,85. Tra i classici il primo è lo Stellini di Udine con 79 punti e oltre. Sentiamo. Sono stati analizzati i dati di 1.347.000 studenti in tutta Italia negli anni scolastici dal 2018-19 al 2020-21. L'indagine ha misurato la media dei loro voti e il numero di esami che hanno sostenuto al primo anno di università, quello maggiormente influenzato dal lavoro fatto durante gli anni della scuola secondaria. Si genera così l'indice FGA. Tra le scuole superiori di secondo grado che in regione meglio preparano all'università, al primo posto compare lo scientifico Torricelli di Maniago con un indice FGA di 83,85, seguito dal Grigoletti di Pordenone e dall'Einstein di Cervignano. Al quarto posto l'Oberdan di Trieste, lo scientifico Le Filanderie di San Vito al Tagliamento e quinto. I cinque miglior scientifici in regione fanno meglio della top 5 dei licei classici. Qui al primo posto c'è lo Stellini di Udine con un FGA di 79,27, che precede per due punti il Leopardi Maiorana di Pordenone, al terzo il Carducci Alighieri di Trieste, che supera di poco l'altro classico triestino, il Petrarca. Quinto l'Uccellis di Udine. Tra i linguistici il migliore è il Pujatti di Sacile. E poi ci sono anche le scuole che danno migliori garanzie per il mondo del lavoro. Nel caso degli istituti tecnici e dei professionali, la classifica considera l'indice di occupazione per almeno 6 mesi nei 2 anni successivi al diploma. In regione a garantire il miglior indice di occupazione a 6 mesi sono le scuole a indirizzo tecnico-tecnologico e tecnico-economico. Migliore tra quelle tecnologiche la paritaria Bearzi di Udine con l'87,8% di occupati entro 6 mesi del percorso scolastico. Si attesta al 77,8% la percentuale tra il migliore degli indirizzi economici, il Galilei Fermi Pacassi di Gorizia. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. La politica, è stata approvata in Commissione Affari Costituzionali una proposta di modifica alle norme per i congiungimenti familiari degli immigrati. Gli emendamenti dei deputati della Lega Pizzimenti e Panizzut, da un'idea dell'europarlamentare Cisinte, che riprende il decreto legge Dreosto del 2023, prevedono una permanenza di almeno 2 anni in Italia per poter chiedere il ricongiungimento familiare, mentre prima era di 1 anno. Se la proposta diventerà legge, una nuova condizione per inoltrare la richiesta sarà anche l'idoneità del dell'alloggio, anche dal punto di vista igienico-sanitario. E ora i lavori del Consiglio regionale. In aula si discute la revisione della legge del 1990, modificata nel 2018, che istituisce la Commissione Pari Opportunità. Questa mattina è stato approvato il disegno di legge sulla nautica, che rappresenta per ora un unicum in Italia. Come ha detto in aula Serena Pellegrino di Alleanza Verdi e Sinistra, la legge sulla nautica approvata questa mattina è un raro esempio di collaborazione tra le varie componenti del Consiglio regionale. È passata con un solo voto contrario, quello di Honsel di Open, secondo il quale la legge rientra nella logica che a suo dire sta trasformando questa regione in un contributificio. Il disegno di legge promosso dall'assessore alle attività produttive Bini prevede una serie di contributi a favore dei residenti in regione che possiedono da almeno 2 anni una barca che ne ha almeno 20. Riguardano la rimessa a nuovo, 3.000 euro fino a 5 metri aumentati di 500 euro per ogni metro in più fino a un massimo di 15.000 euro, bonus per la sostituzione dei motori marini con motori elettrici, incentivi alle imprese commerciali per l'acquisto di barche a basso impatto ambientale. La norma prevede anche corsi di formazione professionale nel settore della nautica, convenzioni con le università per mappare il settore, un master plan degli ormeggi, un programma di promozione della nautica e dei settori emergenti dell'economia del mare. Come osservato dalla consigliera Spagnolo della Lega, si tratta della prima legge regionale che in Italia norma questo settore, peraltro molto importante per il Friuli Venezia Giulia. Positive le valutazioni dell'opposizione, in particolare sul rispetto dell'ambiente che anima la legge. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora i temi dell'occupazione. Alla Pilosio di Tavagnacco, azienda leader nel settore dei ponteggi in acciaio e alluminio per l'edilizia, sempre più donne si fanno avanti nei lavori che erano considerati tipicamente maschili, come quelli di saldatura o tornitura, le cui professionalità oggi sono molto difficili da reperire. L'ultima arrivata a settembre, Martina, 21 anni, udinese, è anche la più giovane delle 4 donne impiegate in officina alla lavorazione delle lamiere per i grandi ponteggi che la friulana Pilosio porta in giro nei cantieri di tutto il mondo. Lei è addetta alla clinciatrice, che serve a saldare a freddo le lamiere, tavole che arrivano anche fino a 3 metri e pesano quasi 30 kg l'una. Il lavoro più pesante, quello più sporco, lo fanno Chiara e Sonia, 26 e 44 anni, di Attimis la prima, di Feletto la seconda, che è addetta alla troncatrice, mentre Chiara fa la saldatrice di precisione. Infine Jessica, udinese, anche lei, 30 anni, alle spalle una formazione di estetista e un lavoro da barista. Alla Pilosio lavora alla profilatrice delle lamiere, spostando con il carro ponte stampi pesanti fino a 1 tonnellata. Professionalità oggi molto ricercate, quasi introvabili, tutte senza esperienza specifica. A formarle sono stati i colleghi maschi più anziani, un'opportunità forse non scontata, quella che è stata offerta loro in un ambito prevalentemente maschile. A cercarla però sono state loro stesse, sopperendo in questo modo alla carenza dei profili mancanti. Antonio Di Minin, direttore generale alla Pilosio. Anche le donne dunque vogliono sporcarsi le mani? Assolutamente sì. Cercavamo indifferentemente donne o uomini e dovevamo dire che hanno risposto positivamente più le donne che gli uomini, e anche l'ultimo periodo. Come si comportano poi con questi lavori? Come li fanno? In maniera molto positiva, in alcuni casi anche meglio degli uomini che sono qui da più anni di loro. Più precise, più attente, sono molto più disponibili anche a cambiare lavoro e molto più puntuali. Com'è la carenza di personale? Avete risolto? No, abbiamo ancora delle carenze, stiamo ricercando, e non più tardi una settimana fa un'altra signora si è fatta avanti per un ruolo da saldatore. Tavagnacco, Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Si chiama Igenio ed è l'ultimo prodotto di Crea, impresa culturale udinese specializzata in comunicazione strategica. Si tratta di un chatbot, un agente virtuale che offre consulenza di marketing per le aziende del settore culturale e turistico della regione. L'evento di lancio si tiene nella sede di Tech4i FVG a Udine, in via Jacopo Linussio 51, nella zona industriale udinese, alle 17. Noi abbiamo parlato con Federica Manaigo di Crea, a cui abbiamo chiesto che cosa è Igenio e a cosa può servire. È un assistente virtuale con cui dialogare, quindi in maniera virtuale, non dialogare come si dialogherebbe con noi consulenti reali, che ci fornisce un primo orientamento nel mondo della comunicazione qualora si desideri promuovere un'iniziativa, un evento, un prodotto, un servizio, e si voglia fare proprio un primo colloquio di orientamento in qualche modo. serve soprattutto per le realtà profit e non profit che non hanno al loro interno uno specialista di comunicazione, una persona dedicata, e che vogliono promuovere un'iniziativa, un prodotto, un servizio, vogliono rivolgersi a qualcuno di esterno, ma non sanno un po' che pesci pigliare, non sanno da dove iniziare, quale possa essere la strategia migliore, e hanno bisogno appunto quindi di iniziare ad orientarsi capendo innanzitutto al loro interno quali sono i punti forti della cosa che devono comunicare e promuovere. Quindi è un programma che fa consulenza di marketing, giusto? Sì, esatto, come invece che fare una chiacchierata con un consulente, ci si scrive, no? Si fa una chiacchierata scritta con un assistente virtuale che è stato però formato da noi, quindi attraverso la nostra competenza ed esperienza maturata negli anni di lavoro. In che senso l'avete formato? L'abbiamo formato nel senso che gli abbiamo dato in pasto una serie di documenti aziendali, quindi di procedure che utilizziamo e di casistiche che in questi anni abbiamo sviluppato. È un servizio gratuito? Il servizio per il momento è gratuito perché è stato sviluppato grazie a un fondo regionale Porfesr, quindi adesso è gratuito e ogni persona registrandosi può utilizzarlo 5 volte con un indirizzo email, quindi per 5 prodotti o casi diversi. Questa è una prima fase di test, successivamente probabilmente avrà un costo, comunque l'idea è che costi meno di quello che costa una consulenza umana, no? È qualcosa di più snello, un po' più veloce, che non va a sostituire quello che è il lavoro di tutti coloro che sono professionisti della comunicazione, ma che è uno strumento facilmente fruibile a un prezzo appunto di mercato che sarà comunque molto contenuto. La Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza ha toccato oggi Fiumicello, Villa Vicentina. La manifestazione era partita i primi di ottobre dal Costa Rica. Gli studenti delle scuole elementari e medie di Fiumicello, Villa Vicentina sfilano in corteo nei luoghi dove è cresciuto Giulio Regeni, gridano il loro no a tutte le guerre, partecipano alla terza marcia mondiale per la pace e la non violenza partita a ottobre dal Costa Rica, che nel suo viaggio per il mondo ha scelto di fare tappa nel comune della Bassa Friulana, da anni impegnato nella difesa dei diritti umani. Stefano Zuliani è il dirigente scolastico dell'Istituto Don Lorenzo Milani di Fiumicello che ha organizzato questa giornata. Partecipare alla terza marcia mondiale per la pace e la non violenza è un'iniziativa, un'esperienza fondamentale per i ragazzi, perché crediamo che attraverso le esperienze significative si possa, anche attraverso l'emotività, passare dei contenuti didattici ed educativi. L'educazione alla pace, alla non violenza, alla solidarietà, all'inclusione, alla legalità, alla responsabilità non sono parole, non sono slogan, ma sono competenze che vanno costruite nel tempo con pazienza, dedizione e fatica da parte del corpo docente. Fanno parte dell'Agenda 2030 e sono alla base dei curricula scolastici di tutte le scuole della regione. Fiumicello, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Una notizia di cronaca: dovrà rispondere dei reati di omissione di soccorso e fuga un automobilista triestino che, dopo aver provocato un incidente qualche sera fa in via Costalunga, si era allontanato dal luogo del sinistro. Il conducente della vettura che aveva urtato incrociandola era finito fuori strada, ferendosi al punto da venir condotto in ospedale per accertamenti. La polizia locale sul posto aveva raccolto frammenti di un'automobile nera e un sensore di temperatura di una certa marca automobilistica, reperti che un paio di giorni più tardi hanno consentito di rintracciare l'auto pirata danneggiata in modo evidente. Il proprietario, convocato in caserma, ha tentato di negare, poi ha ammesso le proprie responsabilità. Sulla testa portava a sua volta le ferite di un colpo violento contro il parabrezza. Guidava anche senza cintura di sicurezza. Oggi e domani sono in programma le giornate mediche triestine, incontri tra professionisti della salute per parlare soprattutto di prevenzione. L'associazione che propone questi appuntamenti annuali è nata 150 anni fa esatti. Stamani a Buongiorno Regione abbiamo incontrato la Presidente. È nella Trieste austro-ungarica e culturalmente vivace di fine Ottocento che si creano i presupposti per la nascita dell'Associazione Medica Triestina, una realtà che metteva assieme i medici dalle diverse competenze e si metteva al servizio della collettività. Da allora sono trascorsi 150 anni esatti che si celebreranno la vigilia di Natale. Lucia Pelusi, presidente dell'associazione, ci porta a quel dicembre del 1874. E all'epoca in cui in questa città c'erano pochissime realtà sanitarie strutturate, questi medici offersero ambulatori e vaccinazioni gratuite ai poveri, e questa attività continuò fino alla crescita e la nascita dell'Ospedale Maggiore. L'Ospedale Maggiore diventò la prima sede dell'Associazione Medica Triestina, dove venivano offerte ai medici dalle diverse competenze lezioni di chimica, farmaceutica e soprattutto malattie infettive. All'epoca la città era una città invasa da molte epidemie, vaiolo, TBC, difterite, erano tantissimi malati di rachitismo e le malattie infettive quindi erano il punto focale. Parliamo di una città in cui gli impianti fognari erano carenti, in cui le condutture idriche andavano risanate. Da 78 anni l'associazione propone le giornate mediche triestine e momenti di confronto tra professionisti. Da un paio d'anni si insiste nel mettere in relazione medici ospedalieri con i medici di famiglia. Perché il medico di medicina generale è la prima persona che approccia il paziente. Quando il paziente ha un problema di salute si rivolge al suo medico di fiducia. Ed è quindi nell'ambulatorio del medico di fiducia che emergono una serie di aspetti, quesiti, domande, patologie più frequenti sulle quali è necessario un confronto con lo specialista ospedaliero. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. 12.46, uno sguardo alla situazione del tempo, cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, da nuvoloso a coperto in montagna, c'è un marcato peggioramento in arrivo come sentiremo fra poco. Ora le temperature delle 11, a Trieste 11 gradi, a Udine 8 gradi e mezzo, a Pordenone 8, a Gorizia 9 gradi, nell'area montana a Tolmezzo e a Forni di Sopra 2 gradi, a Tarvisio 5 decimi di grado sopra lo zero, a Sappada meno 3, sul Piancavallo 1 grado, sul Lussari e sullo Zoncolan meno 4, a Grado 9, a Lignano 8 gradi e 5 decimi. E ora le previsioni per le prossime ore le ascoltiamo direttamente dalla voce di Marcellino Salvador dell'ARPA. La neve arriverà sostanzialmente solo in montagna praticamente. Per quanto riguarda pianura e costa avremo piogge più intense verso Trieste e Gorizia, accompagnate da vento da sud di libeccio sostenuto, il che potrebbe dar luogo anche a un po' di mareggiata tra Lignano e Grado, questo tutto in serata e tarda serata. Neve, come già detto, debole o moderata sui monti, potrebbe arrivare al limite fino alla fascia morenica, quindi oltre i 200-300 metri circa appunto della fascia pedemontana e zona poi alpina. Per quanto riguarda appunto bassa pianura e costa, questo direi è escluso. Le temperature come saranno? Ovviamente con l'arrivo della perturbazione le temperature scenderanno rispetto ai valori del pomeriggio, si porteranno su tutta l'area montana intorno allo zero, un grado o due positivi in genere in pianura, ma sulla bassa pianura lungo la costa saremo più vicini ai 5-6 gradi, anche in virtù di questo vento di libeccio che appunto porta aria calda, specialmente sulla costa. A Trieste a Grado potremo avere anche 8-10 gradi di temperature questa sera. È la giornata degli alberi con numerose iniziative di sensibilizzazione, quasi tutte coinvolgono i giovani, come sentiamo da Pordenone. Nell'area verde dove un tempo sorgeva il vecchio bocciodromo, 70 bambini e bambine di 4 classi primarie della città hanno partecipato alla piantumazione di aceri, bagolari e frassini per festeggiare la giornata degli alberi, iniziativa di GEA con il comune di Pordenone. Una decina le piante messe a dimora oggi, 40 quelle che saranno piantumate entro fine anno. Obiettivo: sensibilizzare i più piccoli all'educazione ambientale. Matteo Florean, Ufficio Verde, GEA. Come GEA il nostro obiettivo è puntare sui piccoli, perché dai piccoli si insegna a curare l'ambiente e a rispettare l'ambiente, quindi i bambini apprezzano molto di più il valore di un albero, il valore di un ambiente verde, ben curato, ben gestito, e poi sono i primi a usufruire di queste aree verdi, quindi chi meglio di loro sa cosa è il bene per l'ambiente. La giornata è proseguita con laboratori al vicino Parco Donadona. Maria Adorno, insegnante. I bambini sono molto molto sensibili a queste tematiche e sono molto bravi nel separare plastica, carta, vetro, nel lavare le ciotoline di plastica e buttarle pulite, veramente veramente bravi, ci tengono tantissimo perché sanno che ogni goccia forma un oceano. Il calendario di iniziative prevede altre 4 giornate dedicate a cibo, riciclo, terra e biodiversità. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E a Udine si svolge un convegno sugli alberi monumentali. La nostra è la regione che ne può vantare di più, oltre 500. 511 gli esemplari censiti in Friuli Venezia Giulia, più di tutti in Italia, in realtà sono molti di più, circa 1500 gli alberi monumentali presenti in regione. La discrepanza dei numeri provocata dal metodo di classificazione del Ministero, ovvero secondo schede di rilievo dove in un luogo sono raggruppati alberi dello stesso tipo. Un convegno internazionale di arboricoltura per parlare dell'importanza che possono avere gli alberi monumentali nella difesa del territorio in un momento caratterizzato dai forti cambiamenti climatici. Andrea Maroè, Regione Friuli Venezia Giulia. L'albero, diciamo, dà dei servizi ecosistemici che permettono di rallentare il cambiamento climatico. Per cui mantenere i nostri alberi, dagli alberi monumentali fino agli alberi più piccoli, e poi anche tutto il compendio vegetale delle nostre città, quindi l'infrastruttura verde che è presente sul nostro territorio, è assolutamente fondamentale. Assieme agli enti locali, la Regione Friuli Venezia Giulia ha scritto le regole di gestione delle aree verdi urbane e con i comuni ha definito le linee di finanziamento a loro favore per la gestione del patrimonio verde. Nel suo intervento l'assessore Amirante ha sottolineato i contributi previsti per 8 milioni di euro nel 2025 per la gestione del verde pubblico e privato. Le difficoltà riguardano anche la scelta delle specie da inserire nelle aree urbane a causa delle inevitabili interferenze tra costruito e natura. E poi ci sono le specie aliene, come l'alianto, demonizzato dopo gli incendi che hanno colpito il Carso triestino e goriziano. Maglio speciale botanico. Ma si insedia in posti abbandonati spessissimo, oppure minacciati, oppure devastati appunto dagli incendi in certi casi, provocati dall'uomo. Ecco, se noi entriamo in una sintonia con le piante più diffusa e cerchiamo di fare meno danni all'ambiente in generale, l'ailanto si ferma nei boschi climax, non ci va. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lo scrittore statunitense James Sturz è a Trieste per presentare il suo romanzo Under Jungle, edito da Atlantide. Alle 18 sarà alla libreria Lovat per incontrare il pubblico, intervistato da Pietro Spirito. A Udine si svolge la prima di due giornate dedicate ai 100 anni dell'Atlante linguistico italiano, organizzato nella sede di Palazzo Mantica dalla Società Filologica Friulana. Oggi i lavori cominciano alle 15. A Muggia si presenta il libro di Fabiana Martini, Il governo delle donne, nella biblioteca di Via Roma. Con l'autrice dialogheranno Laura Marzi, Anna Vitaliani e Francesca Terranova alle 17.30. E alla libreria Minerva di Trieste alle 18 si presenta Cronaca di un misfatto, due donne assassinate nella Udine del 44 di Elisa Meloni e Paolo Strazzolin, Aviani editore. Due vite spezzate, un duplice femminicidio premeditato, l'eredità emotiva dei traumi sepolti nel passato, la ricerca della verità. Sergio Pischiutta, ovvero il partigiano Sergio, in un nuovo libro che viene presentato a Monfalcone alle 18 nella sede dell'Ampi. L'autrice Manuela Musina ha scritto una biografia corredata da molti documenti e immagini inedite. Gli spettacoli e Mika, il primo nome del prossimo No Borders Music Festival che nel 2025 arriverà alla sua 30ª edizione. Mika sarà in concerto ai Laghi di Fusina il 20 luglio, lo ha annunciato l'organizzazione. Sul sito del festival sono reperibili le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo. Mika, showman libanese naturalizzato britannico, è autore di 5 album in studio e una lunga lista di singoli di successo internazionale. E ora lo sport. Il Friuli Venezia Giulia festeggia oggi il prestigioso risultato ottenuto al trofeo CONI, il terzo posto alle spalle di Emilia Romagna in Sicilia nella manifestazione che si è svolta ai primi di ottobre. Si tratta della più grande manifestazione riservata agli under 14, ospitata stavolta dalla Sicilia, 4.500 i partecipanti. Della rappresentativa regionale facevano parte 200 ragazzi che nel pomeriggio alle 17 riceveranno un riconoscimento dal Comitato Olimpico in una manifestazione ospitata a San Giorgio di Nogaro dalla locale società di canoa. Nell'occasione il Consiglio regionale del CONI farà il punto sul Festival Olimpico della Gioventù Europea che sarà ospitato da Lignano nel 2026. 12.54 è tutto per questa edizione del GR regionale che è stata redatta e condotta da Dario Ronzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Mauro Cumin e Marco Feritoi, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossima edizione alle 15. A tutti voi grazie per averci seguito e ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.